Se mi attacco al micro... Mi atta ah, ok, vedi, mo entra di più. Allora, salve a tutti, stiamo cominciando una nuova puntata piena di problemi tecnici su sessioni notturne, su Radio Wombat. Vuoi dire qualcosa? Bella. Sigla! Bella. Sì, oh, ci sono. Sintonizzati, inizia la trasmissione. Mars e Vintro, Radio Wombat in onda. Per la lezione sulla doppia selezione di tracce bomba da collezione. In missione notturna come un pescatore. Tu cerca altrove se vuoi musica di merda. Se vuoi il contrario schiaccia play e segui la diretta. Ti culla da stanco, una spinta se vai di fretta. Imposta sessioni notturne sulla giusta frequenza. Vieni Marione, spara due minchia. Bianca. La giusta. Vai, vai. Ah, no, ho sbagliato. Aprite la cazzo di porta? Ah, la porta. È perché volevo fare la doppia sulla culla. Sulla culla. Mo apri. Ma la culla no. Non è quello di... Eccoci, bentornati su Sessioni Notturne, non vi lasciamo più adesso e cominciamo subito una nuova puntata che è in grande, grande contrasto con l'ultima che invece era sulla malinconia e sulla tristezza, quindi abbiamo deciso di riprenderci, di ritirarci sul morale, un tiramisù per tutti e di fare una puntata sui pezzi invece che la fanno prendere bene, perché abbiamo scelto una serie di brani che ti tirano sul morale e per un po'... farci perdonare per la tristezza della puntata scorsa o quantomeno cambiare il mood. Vi giuro, sembra che se ne prepara le frasi quando inizia a parlare, ma in realtà è tutto improvvisato, cioè parla così pulito e perfetto e così mi passa la voglia di venire in radio. Ma non saprei. Dai, ci pensi tu. Allora io adesso sai che faccio? Io comincio a fare soltanto sì, hai ragione. E parli tutto tu che oggi proprio non è giornata. Anche se la puntata è presa bene. No, perché bene. A Mars in realtà non piace, l'ha presa bene. Piace a me, lui è più per la mi piace, malinconia. La presa bene, però oggi fa troppo caldo per essere presi bene. È arrivato questo caldo. Guarda, vi dico la verità, volevo tanto bermi una birra, ma non ce l'abbiamo, quindi è presa bene. Sì, non, fra non l'altro. Ci può essere, capisci? Confessiamo questa cosa, siamo senza birra oggi ed è... Quindi oggi saremo molti, cioè saremo... Questo pezzo non è presa bene, sì, bella, fratello. Okay. Ma non vogliamo alimentare e incoraggiare il vostro alcolismo e quindi... E quindi bevete senza dircelo. Esatto, bevete senza sensi di colpa, ecco. Ok, allora partiamo con la puntata, partiamo con la musica, partiamo con i Dilated Peoples, che con questo bel pezzo ce lo fanno prendere molto bene, perché è un pezzo veramente... La Dilated. Esatto, sì, non volevo dire sono qualcosa loro, di fico, sono ma non loro. Mi veniva nulla in mente. Vabbè, sono fichi comunque. Sì, vabbè, ma dire che sono fichi e dire qualcosa di fico sono due cose tra l'altro vorrei far notare una cosa che io faccio notare sempre, probabilmente il nostro pubblico non mi sopporta più per questa cosa, il fatto che non li abbiamo ancora mai passati noi Dilated Peoples. È una cosa strana perché abbiamo passato Evidence, abbiamo passato Evidence. Evidence da solo, ma non abbiamo mai passato ma loro. Ma sei sicura che non li abbiamo passati? Sì, io mi ricordo di aver parlato di loro soltanto ricollegandomi a Evidence, quindi... Però io mi ricordo di aver parlato di Babu. No, ma no. Vedete che abbiamo passato pure questo pezzo. Era, dobbiamo andare a controllare il podcast. Vabbè, casomai ve lo risentite. È comunque un pezzo preso bene. È comunque un pezzo molto bello. E non poteva mancare in una puntata del genere questo brano qui, questa canzone. Okay. Quindi vi lasciamo a questo inizio di gioia, eccetera, eccetera. Potevi dire anche il titolo del pezzo. Mettiamo live on stage. Basta, tanto di questo. Questo era. Ok, vado. A voi. Aspetta. Sempre la situazione mixer è sempre fantastica qua ragazzi. So I want to bring to the stage right now Evidence, Rock the Island Science and DJ Babu. Mathematics. add shit, subtract shit. Me and the mic, we got this animal attraction. Mid-city out to Manhattan, ain't nothing fancy. Yellow cabs pass me by, I call Delancey. Keep my team moving through lights, cameras, and action. Thoughts to ideas, designs to manufacturing. Ev still Travolta, I'm still Samuel Jackson. Blasted, live on stage is where it happens. Step to the zone, spotlight on, the sights on, all eyes on. Turn the tables and the mics on. Fans slapping rock and they scream out loud. This time I give it back and applaud the crowd. That's a dilated display, a new sound. We on live on stage. That's a dilated display, a new sound. Check it out, check it out. You now rocking with the rock. That's a dilated display, a new sound. We on live on stage. Live on stage. That's a dilated You know we break barriers, redefine the coast. Yo, determined like John Walsh, America's most evidence. Say my name out of self-defense. Catch me on stage with B-Real off two blunts bent. You almost famous. We got groupies that call themselves Band-Aids to keep their feelings painless. Nothing to lose, got only shit to gain this year. Out of control, cause for 6 years. Flow for my peeps and peers. You know we taking live on stage to new levels this year. Not here to chase fans, I'm here to rock for people who feel my band. Connect dots across the land. Yo. That's a dilated display, a new sound. Live on stage. Live on stage. Dilated display, a new sound. You rock. Excellent, dilated display, a new sound. We on live on stage. Back, you back, and now who cuts into Alchemist instrument? Watch out. This is what it is. Live on stage. Their lessons not taught, their kids will still learn. And choice that's not hot, but cats will still burn. Pro Bowl selectors, primetime announcers, fans and promoters, bartenders and bouncers. Throw a jab at these cats, quick to counter. Clockwork, how precise, the heist gets encountered. Taking over, set the pace for new seasons. People questioning my loyalty for no reason. Treason? Never backed out of my team. Fuck fake expansion, anthems loose on the streets. As for beats, keep them sharper than cleavers for me. This is the elite, true indeed. We playing for keys. Dazzling, dilated, display a new sound. We on live on stage. Live on stage. Dazzling, display a new sound. With us, dazzling, dilated, display a new sound. We on live on stage. Dazzling, dazzling, dazzling, dilated, display a new sound. Dazzling, dilated, display a new sound. Dazzling, dilated, display a new sound. Dazzling, dilated, display a new sound. Sì, è sempre divertente aprire i microfoni prima che finisce il pezzo, però se fai qualcosa di divertente. Ok, qua abbassiamo, metto il beat e possiamo proseguire. Quanta bella presa bene per iniziare questa puntata, non siete felici di ascoltarci tutti giovedì? Sì, anche il tono di voce è veramente preso bene. C'è un attimo di... Che cos'hai? Vedi che clippa tutto. Di malattia. Clippo? Clippi. Se fai... Hai ragione. Calippo. Scusa. Ma parliamo un pochino dei nostri Dilated. Allora, parliamo un attimino dei nostri Dilated. Che poi a me non è ancora chiaro se dice Dilated Peoples o Dilated Peoples. Una cosa che. Cioè, capito, a volte viene pronunciato in modo diverso. Dilated. Cioè, tipo all'inizio di sto pezzo, l'annunciatore del live dice Dilated Peoples. Invece, poi alla fine si andano tutti i cazzo di babù che fa Dilated. Infatti, boh. E quindi infatti... chiamiamoli Dilated Peoples. Siamo tutti contenti. Allora, i Dilated Peoples. Peopless, se si è detta così sembra proprio brutta. Vabbè, insomma, nella prima metà degli anni 90 si compone questo gruppo, che inizialmente era un duo formato da Evidence e Raka, The Irish Science. E poi a cui si è aggiunto poi DJ Babu, che era un fortissimo DJ proveniente dai Beat Junkies, che è una crew di DJ che fa una barcata di scratch, che prima o poi parleremo, nuova puntata di scratch, parleremo di Beat Junkies, ecco. Nel 97 registrano due singoli che li portano, diciamo, al successo, quindi pubblicano il loro primo disco nel 2000, The Platform. E questo disco invece, Expansion Team, da dove abbiamo preso il pezzo Live on Stage, del 2001, ed è il loro secondo disco, diventato famoso anche per la collaborazione di Alchemist in Worst Come to Worst, pezzo che conoscete, ne abbiamo anche parlato di questo pezzo. C'è anche un cameo di Guru nel pezzo, credo, quindi è un pezzo che è diventato famoso alla grande, credo, anche col video, c'era un remix, tutto fico quel pezzo. E niente, poi hanno fatto altri dischi, hanno fatto altre robella, capito, tutto a posto. vediamo un po', ecco, una cosa interessante. Dal 2006, nel 2006 fecero uscire il loro quarto disco e poi ripresero a far musica insieme nel 2014, quindi dopo 8 anni di assenza. Evidence faceva il solista, Raka ha fatto uscire un disco, se non sbaglio, più di uno non ha fatto, e Babu continuava a screcciare in giro per il pianeta. Ok, andiamo avanti. Cioè, per il momento possiamo fermarci qui. Tanto loro li rincontreremo. Ci vediamo giovedì prossimo. Presto. No. Dai, fa caldo. Ma noi resistiamo da una vita, direi che possiamo anche continuare a resistere. Ah, ecco qua. Vai, andiamo avanti. Queste giornate soleggiate ci portano a riempirci di pensieri positivi e quindi abbiamo scelto di passare questo queste prove di microfono durante i miei monologhi un pochino mi distraggono, Mars, non so se è alto e devo fare hai ragione. Riprendi, non ti disturbo più. Mai più dare torto al capo. Allora. Allora, quindi abbiamo deciso di alternare e passare invece a una grande colonna italiana. Loro sono gli OTR, il pezzo è Ce n'è, c'è la grandissima partecipazione della Pina, siamo nel 97, il disco è Dalla Sede, tutto vostro, fatevela prendere bene. Guarda, con questa voce sembra anche un pochino Esa, questa voce un pochino graffiata. La faccia di Mars in questo momento non è molto confortante. No, stavo aspettando, non volevo interromperti di nuovo, capito? Magari mi saltavi al collo con i denti da vampiro. Posso? Sì, dai. Non dico niente, vedo solo in play. You search for a 9 to 5. You search for a 9 to 5. You search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I'll stay alive. You search for a 9 to 5. You search for a 9 to 5. You search for a 9 to 5. Con tempo che carte importante, sapere in che modo e in quale istante giocarle. Gente in gamba che espanda, smolla le certezze come vesche con più di 7 anni di servizio in banca. Cambia, Polare adesso fa il rap, prima era disegnatore tecnico al CAD. Al giorno d'oggi smollare un posto dove svolti 4 soldi non è da molti. Nella ricerca di un'identità, 4 anni fa ho smollato l'università. Ma quando penso a quello stronzo di un notaio e a quanto il mese scorso mi ha estorto, mi sa che sbaglio. Forse meglio una laurea che la fama, 40 ore a settimana per la grana. Weekend alle Bahamas, mangiando sushi, sorseggiando asti come Sean Puffy nella jacuzzi. Purtroppo i soldi non piovono quando te la cavi al microfono e io qualcosa me la merito. È il momento per tirare su una nazione con lo stesso groove come il funkadelico. Se sei d'accordo con me, quando domando com'è, rispondi ce n'è, com'è, ce n'è. Di gente che considera automatico non smollare il colpo al primo ostacolo, ce n'è. Di gente che ingoia ogni delusione, time to make money per quelli che combinano, ce n'è. Di gente che considera automatico non smollare il colpo al primo ostacolo, ce n'è. Di gente che ingoia ogni delusione, time to make money per quelli che combinano. Io faccio a cazzotti nello showbiz, mentre tu fai rimbalzare la tua testa sul mio beat. Cerco di gestire il mio talento con professionalità, sempre in ballo come la Carrà, vivo per la musica. Quello che era un hobby oggi è vita pratica, stile quotidiano, etica, zero tempo libero, eppure sto sull'astrico. Porto in giro uno spettacolo composto da 3 MC, un DJ e un fonico, gente con la quale condivido tutto e con uno pure il letto. Ce n'è di momento momenti in cui le delusioni scaraventano nel panico e pensi di attaccare al chiodo anche il microfono, ma poi c'è qualcosa che fa pugni con la depressione, trasforma la cantina in uno studio di registrazione, il salotto in etichetta, lo sgabuzzino in un magazzino di roba autoprodotta, c'è chi la chiama fotocchi energia o chi semplicemente roba mia, io la chiamo voglia di restare in piedi, tu fai come credi, però ti garantisco che ce n'è di gente che considera automatico non smollare il colpo al primo ostacolo, ce n'è di gente che ingoia ogni delusione, time to make money per quelli che combinano, ce n'è di gente che considera automatico non smollare il colpo al primo ostacolo, ce n'è di gente che ingoia ogni delusione, time to make money per quelli che combinano. Dalle 8 alle 12 a pranzo a casa con il 112, pausa di intermezzo fino all'1:30, per il pomeriggio appuntamento fisso come un notiziario con lo straordinario. Parallelo al mio tran tran, crescevo nel mio clan, ma il tutto mi era stretto come a volte il cellophane. 3 anni per deciderlo, adesso devo ammetterlo, ci sto più comodo, con un piede in una scarpa, passando da comparsa a regista, e occorre avere fegato più di un alcolista. 24.7.365, non è un enigma della Sfinge, né un numero per il lotto svizzero, ma il tempo che ora dedico, tra sede a Varese e palcoscenico, nemmeno Einstein può scrivere la formula di quale sia l'energia che mi stimola. Ma con Fedbez, Biggie, la pina e il cespo, l'esito all'oracolo, per ora investo. Se sei d'accordo con me, quando domando com'è, rispondi ce n'è, com'è, ce n'è. Di gente che considera automatico non mollare il colpo al primo ostacolo, ce n'è. Di gente che ingoia ogni delusione, time to make money per quelli che combinano, ce n'è. Di gente che considera automatico non mollare il colpo al primo ostacolo, ce n'è. Di gente che ingoia ogni delusione, time to make money per quelli che combinano. Una nazione sotto lo stesso roof che non si può fermare. Se sei d'accordo con me, quando ti chiedo com'è, rispondi ce n'è, com'è, ce n'è, com'è, ce n'è, com'è, ce n'è, com'è, ce n'è. Questo è per chi considera automatico non smollare il colpo al primo ostacolo. La ODI è WRE 9.6. Se già c'avevi il software, questo è l'upgrade. Com'è? Com'è? Molto bella, molto bella. Tra l'altro era l'ora che passassimo gli OTR in radio, era veramente l'ora e il caso. Allora, e quindi dobbiamo un pochino spendere due parole su questo enorme movimento crew nata molto presto in Italia. Infatti OTR sta a significare originale trasmissione del ritmo, e questi nascono appunto come crew aventi l'intento di racchiudere tutte le discipline dell'hip hop e si collocano, cioè si trovano nella zona di Varese. Sono un gruppo molto folto inizialmente, composto principalmente dagli MC Azza, Esa, Intru, Limite, Polare, Thor e dai DJ Irmu, Vigor, Vez. Vero? Entra presto nella crew ovviamente anche Tormento, che era il fratello minore di Esa, insieme anche alla Pina, che diventerà poi un po' di gossip, diventerà poi la compagna di vita di Esa, anche se poi la storia finisce, però insomma c'è stato un periodo in cui si frequentavano non solo al microfono, ecco. Rumori di sottofondo. Era Esa. Simpatia. È nel 92, pensate voi quanto tempo fa, che esce il demo tape l'anno della riscossa, seguito poi dal singolo Reggano Droga. È in questo periodo che gli OTR stanno lavorando all'LP Quel Sapore Particolare, al quale poi collabora anche la Pina in un paio di brani, che uscirà poi nel 94. Cosa succede poi agli OTR? Loro passano ad essere degli ospiti, inizialmente ospiti fissi e poi addirittura conduttori di quello che si chiamava all'epoca Venerdì Reppa su Radio DJ, ma poi noi lo conosciamo tutti come 1-2-1-2. Esatto, ho fatto un po' di movimenti con le mani mentre dicevo 1-2-1-2 e quindi Sì. Cosa succede? Due pillole veloci, sennò perdiamo troppo tempo. Che nel frattempo, mentre tutto questo andava avanti, due furbetti del gruppo, ovvero Tormento e DJ Irmu, lasciano la crew e danno vita ai Sottotono, che quindi sono proprio un'estrapolazione degli OTR, insieme al beatmaker Fish e all'MC Nega. Quindi nel 96 cosa succede? Il gruppo si è ridotto soltanto a Esa, Polare, Vez e Vigor. I classici. Esatto, quelli che rimangono. E nello stesso anno avviene la fondazione della sede a Varese, della loro sede, proprio il luogo fisico del ritrovo, la casa di produzione della Mixman Connection, e insieme ad altri graviteranno intorno a questo luogo tipo Bassi Maestro, Davo, altra gente. Ed è in questi anni che nasce questo disco, che poi sarà il primo, cioè non il primo, però comunque il loro maggiore successo probabilmente, questo disco qua, che è del 97, che è composto da OTR featuring Lapina, e il disco si chiama Dalla Sede, da qui che abbiamo preso proprio questo pezzo che vi abbiamo fatto sentire. Direi che ho parlato abbastanza degli OTR, vi ho anche rimbombato un po' le orecchie e possiamo andare avanti. Ma non lo so, cioè io ti farei parlare sempre, sai. Wow, ma com'è gentile oggi Mars, non capito mai, sarà il sole. Ah, è per quello. Mi rompo il cazzo a parlare. Allora andiamo avanti. Torniamo. Tutte le volte che scopriamo che tracce abbiamo dopo abbiamo delle reazioni. Sì, perché noi abbiamo dei pezzi, ma poi la scaletta non è fatta, capito? Allora, adesso andiamo nel vecchio continente. No, il vecchio continente è l'Europa. Nel nuovo mondo. Quello che si chiamava Nuovo Mondo e che Dvorak scriverà la Sinfonia del Nuovo Mondo, proprio intendendo. Andiamo nel Nuovo Mondo, andiamo a lottare contro i quattro imperatori del mare. allora adesso tocca a Blue ed Exile, che abbiamo già passato Blue ed Exile. Sì, o quantomeno abbiamo passato sicuramente un beat tape di Exile in sottofondo. Sì. Vabbè, e forse Blue da solo. No, Blue da solo, non lo so, vabbè, comunque adesso vi beccate Blue ed Exile, che hanno fatto, cioè questo è tipo il terzo disco, no, questo, sì, questo è il terzo disco che fanno in collaborazione, se non contiamo l'EP che è uscito settimana scorsa. Sì, quindi carino. Carino, beh, sì, ne parliamo dopo delle nuove uscite, dai. Adesso c'è Another Day di Blue ed Exile, vi metto play. Pezzo molto rilassante. Pezzo molto molto molto funkeggiante, un po' tranquillo, soleggiante, funkeggiante, beh, comunque tranquillo, ho preso bene. Ciao. Just another day living in the hood. Just another day around the way. Feeling good today. Check it out, look. They say rap's like a trap, so I'm looking for the map to the back door. Sometimes I sit and wonder what the fuck I'm rapping for. So many cats more talented and never had a chance at it. Not to mention niggas trying to damage it. Cold-hearted vandalists fucking up the culture. They acting like it's kosher to rap for the advantages, making the game scandalous. Stranded so far from the art, you start to wonder if they ever was a fan of it. I'm digging in the crates with the candles lit, looking for a record to describe my anger so I can sample it. Condense my feelings into 16 bars and try to sugarcoat my quotes so they won't seem raw. And I can tell what all your folks' dreams are. Cause all the video shows, this whole jockin' niggas knocking in cars. Now the youngest want a piece of the pie, so the devil lets them starve and start feeding them lies. Now try to digest that. And you wonder why we buy stress sacks. The shit out with niggas dish out without X-lax. I'm trying to get out of the West Coast black. It's a bad place to raise famine. I'll be damned if I ever get back. Where shit's at now, it'll make Martin Luther shake his head and sit back down. Like did y'all niggas had the same dream? And Malcolm X will wonder, are y'all on the same team? The way these fiends keep drowning off in the mainstream. The lame thing about it, it's the same teams that bought it, probably skipping this song. Build walls around the ignorance, defending what's wrong. Instead of fighting for freedom, that's why I only write what I believe in. Nothing less. One, two, three, five, staying alive with no job. One, check it. I should've listened when my moms told my ass they in class. Should've listened instead of ditching to get a little ass. Or maybe I should've listened to my pops when he told me hip-hop won't do shit but keep me on the block. Or maybe I should listen to my niggas pitching rocks cause they pushing nice whips from cooking white bricks. Or maybe I should be like my uncle, that nigga pimping white chicks. But none of them lead a life like this. It's like the right do right just to try to stay the fuck out of hell. But me, I'm trying to stay the fuck out of jail cause I can smell trouble coming my way. Plus there's so many reasons the nigga wanna keep a gun at his waist. And it don't take much to make him pull out cause niggas die for their rides, money and brawls and calling the wrong hood out. And suckers still tripping on colors like a motherfucking racist. My cousin was banging at my aunt's cookout to fill out war. And I don't know who to listen to. I thought rap was a positive gap that I could get into. But nowadays you gotta bust a cap if they dissing you. Either that or be labeled a bitch cause you didn't shoot. It's hard to pick and choose right from wrong. Like if you rap about freedom, nobody likes your song. But do a track about cheating, bitches will play it all night long. See, I don't get it why the righteous fall. Like my ex used to bump exhibit. And the favorite line was I be catching bitches while bitches be catching feelings. Yeah, she don't want me tricking around. See, she idolized the lifestyle but don't want none of it going down. It's kinda like these phony clowns thinking they hood dwellers. Acting mafioso cause they seen good fellas. Now they running through the hood yelling blue is bucking brown. Bet you giving your attention to me now. E anche il relax fa parte della presa bene, quindi anche questo pezzo ci rientrava perfettamente nel tema di questa nostra puntata. Sì, era bello tranquillo, sì. Bello abbastanza molleggiato. Io ho una passione incontrollata per questo pezzo, fra l'altro. Cioè, uno di quei pezzi che quando non sai cosa ascoltare, te li ascolti. Il disco da cui abbiamo estratto questo brano è del 2017 e si chiama In the Beginning, due punti, Before the Heavens. Due punti per anche evitarli per descrivere il titolo di un disco, capito? No, secondo me non è vero. Non è vero. Stava a parte la buongiorno, virgola, come sta lei oggi? Punto interrogativo. Vedi? Sembra un coglione. va bene, andiamo avanti. Parliamo un po' di Blue Exile, che quantomeno sanno che cosa dicono, ecco. Blu, nome reale Johnson Barnes, credo si dica così, o Barnes. Terzo, fra l'altro, è dell'83, sì. Che nome nobile. Vero, un sacco. Exile invece ha un nome che è molto, molto, molto strano, si chiama Alexander Manfredi. Alexander con KS, no con la sì, X. Bel nome, mi piace Manfredi, un sacco, grazie Exile. Va tanto italiano. Loro due si sono incontrati per la prima volta verso la metà degli anni 2000, mentre Blue serviva come hype man per vari gruppi hip hop, tra cui Slum Village e altri, insomma. Blue fu personalmente presentato ad Exile dall'altro membro di Emanon, Aloy Black, di cui abbiamo messo un... abbiamo già parlato di Emanon, che era insieme, Aloy Black insieme ed Exile. A lui, dall'altro. Sì. Cioè, capito? Aloy Black, capito? mi sembra sempre strana questa situazione. Sì, anche se andate a ricercare nelle vecchie puntate c'era un grande stupore quando abbiamo messo il pezzo con lui. Sì, un problema. E quindi è nel 2007, che Blue Exile pubblicano il loro album di debutto, no? Below the Heavens, che è stato descritto addirittura come uno dei migliori dischi pop del 2007. Yow. Perché effettivamente è un bel disco, cioè è un altro di quei dischi che quando non so cosa ascoltare mi riascolto. Vabbè, ma Exile c'ha delle produzioni pazzesche, Blue rappa proprio fresh, capito? Bello. E da lì continua la loro collaborazione, continua, hanno fatto uscire da poco un EP. Sì, è uscito settimana scorsa. Sì. Ora me li sono scritti i dischi che sono usciti a maggio. Vabbè, in ma già che stiamo parlando di Blue Exile, parliamo un attimo di quello. Oddio, cioè, parliamone, almeno annunciamo. Andateli a sentire il. Sì, aspetta, che il titolo mo ricordo. Sì, cestino. Che computer di. Allora, un attimo di pazienza, stiamo lavorando per voi. No, aspetta, ma. Ci serve una sigla per quando abbiamo queste. Ecco qua. Ok. Allora, quindi vediamo un po'. Blue Ah, Exile, true True and living. Living. Living. Living. Living. Ci Si scrive stiamo living, ignorando a ma vicenda. noi. È uscito il 22 maggio, quindi è uscito così 2 settimane fa più o meno. Io l'ho scoperto settimana scorsa, quindi. No, è carino, è carino. Secondo me non è ai livelli di quegli altri dischi loro di Vabbè, ma prima. un EP, Sì, c'ha è un tipo EP, è quattro un'altra tracce, cosa. due Però ci sono degli EP strumentali, che sono molto belli. Questo è bello perché loro sono bravissimi e cioè non deludono mai. Però non è ai livelli di altri lavori che hanno fatto indietro. Andiamo avanti. sì. Adesso torniamo in Italia, andiamo in Basilicata, che bello poterlo dire qua. Andiamo in Casa Basilicata, sua. sì, casa mia. Aspetta che devo cercare il pezzo, dov'è? Eccolo qua. Adesso vi passiamo il pezzo di un rapper e produttore calabro lucano che niente, che spacca tantissimo, è forte. Bravissimo. Ve ne parliamo dopo, comunque. Questo è Nero, lo trovate su YouTube, lo trovate su SoundCloud, lo trovate su Spotify. Va bene, parliamo dopo. Questo è Never Give Up. Io alzo il volume, vi faccio prendere bene con discorsi riflessivi. Sì, perché sto pezzo è fighissimo. Andiamo? Sì. Andiamo? Vado. Quando non sai che strada prendere, ti vorresti arrendere, tutto sembra niente. Never give up, quando ogni amico sembra assente. Le luci sono spente, il buio invade l'ambiente. Per never give up, anche se ti hanno preso in giro. Giocato un brutto tiro, i nervi tolgo nel respiro. Frate, never give up, non interrompere il cammino. Persegui ogni obiettivo e scoprirai che il tuo destino è più vicino. Oggi ogni cosa è fuori posto, mi sento tutti addosso. Non sopporto alcun soccorso, su un dorso c'è un mostro. Non riconosco i miei passi in questo percorso. Mi sposto quanto posso, adesso il polso bomba inchiostro. Non so cosa mi prenda, forse sento già la puzza dei 30. Nell'aria una luce spenta, una voce mi tormenta. Attenta alla mia calma, che tanto non mi annienta, ma alimenta la mia fiamma. Scamma la trama del dramma, puoi darmi un'arma e stai in guardia. Finora tarda con l'ansia che ci bombarda. Ogni sclero che mi riguarda rimanda storie dal vero, ci spero. Il resto passi e mi lasci sempre sincero. Può darsi, possa realizzarsi ciò in cui credo. Rialzarsi e dagli alti e bassi trovare un mio punto medio. Io credo in quello che vedo e ci credo sempre meno e mi chiedo c'era un rimedio. Vi prego, lo voglio indietro. Senti, fra, questo è quel motivo che mi porta al di là. Di chi mi vorrebbe a terra invece, volo con rabbia. Qua sulla vista è più bella, ma attenti alla gravità. Non si sa quanto dura, si sa solo quanto è dura. Metti quella sicura, tu la tua la serratura. Quando è notte, sistema l'armatura con cura. Che questo mondo è in chiusura, chiusura, oscura anche il più forte. Quando non sai che strada prendere, ti vorresti arrendere. Tutto sembra niente, never give up. Quando ogni amico sembra assente, le luci sono spente, il buio invade l'ambiente. Per never give up, anche se ti hanno preso in giro. Giocato un brutto tiro. I nervi tolgo nel respiro, frate, never give up. Non interrompere il cammino. Persegui ogni obiettivo e scoprirai che il tuo destino è più vicino. Mi tremano le mani, tutto ok, dato che nulla è fermo su sta terra, neanche lei di per sé. Faccio piani necessari per domani, perché tra gli umani solitari impari a crescere per te. Mi tremano le mani, tutto ok, dato che nulla è fermo su sta terra, neanche lei di per sé. Faccio piani necessari per domani, perché tra gli umani solitari impari a crescere per te. Ed io cresco con rap. Sarà che sono cinico, ma qua è tutto così ciclico da rendere ridicolo ogni tipo di spirito critico. Resto in bilico, sfido un limite fisico, alzando il livello lirico. Rimo sempre più criptico, se ruole nel cuore finché si muore dentro l'io. L'amore vuole coraggio, è più facile dirsi addio. Mi duole che le persone in ostaggio dentro l'oblio di un mondo in cui non c'è sole, facciamo piovere sul mio. Il fruscio di questo disco è terapeutico, medico. Dedico questo inedito, dedito a far da medico a chi ha perso un po' di fiducia strada facendo. Una ferita che brucia ed indugia nell'andamento. Ma se io posso andare sul sample senza alcun altro abbellimento, solo taglia il sentimento. Tu puoi come Vincenzo governare te stesso. Riesco a essere buono ma non fesso, cresco ed esco. Quando non sai che strada prendere, ti vorresti arrendere. Tutto sembra niente, never give up. Quando ogni amico sembra assente, le luci sono spente, il buio invade l'ambiente. Per never give up, anche se ti hanno preso in giro. Giocato un brutto tiro, i nervi tolgo nel respiro. Frate, never give up, non interrompere il cammino. Persegui ogni obiettivo e scoprirai che il tuo destino è più vicino. arrenderti mai, quanto può dare voglia di vivere un'affermazione del genere, no? Sì, è proprio è preso bene, ti fa riflettere quella del genere. Ti fa dire dai, ce la puoi fare, sì, una cosa del genere. Dovremmo pensarlo tutti. Esatto, infatti quando siete un po' giù, che pensate, ascoltatevi questo pezzo, che figo. Sì. Questo era Never Give Up sul sample da Segni del Tempo, disco di Nero uscito nel 2014, disco che è bellissimo, a me piace un sacco. Non sono di parte, che mi piace tantissimo questo disco. È vero, è un bel disco. Un bel disco. Allora, praticamente, cosa dirvi? Cioè, ha cominciato da giovane, da ragazzo, adolescente, con un gruppo che si chiamava IDF, giù a Potenza. Il suo primo disco solista si chiamava. Il suo primo demo solista si chiamava Blackout. Non ricordo l'anno in cui è uscito, però ce l'ho. Non ricordo minimamente che anno era un po' piccolino. Poi fece uscire un altro disco, si chiamava Raptus. Poi fece uscire Blood of My Pen. Di questi dischi su internet in realtà forse non li trovate tutti, su YouTube magari, non lo so. Su YouTube sì, qualche pezzo di Blood of My Pen si trova. Però se ne del tempo potete andarvelo a sentire su Bandcamp, potete trovarlo su YouTube, lo trovate su Spotify. Oltretutto un paio di settimane fa ha rilasciato il suo nuovo. Fare pubblicità e vendita. Sì, vabbè. Comunque che è un bel personaggio. Non so sbilanciarmi. Ve lo porteremo in radio, cioè prima o poi ve lo porto quando sarà a Firenze. Ve lo porto. Ha fatto uscire un beat tape un paio di settimane fa. Un paio di settimane fa. Meno preso bene, però comunque sì, il beat tape molto più spaziale. Lui è bravissimo, cioè, opinione personale, veramente bello da sentire, nel senso che fa dei lavori molto molto originali, molto molto fatti bene, a gusto. Peccato che non sia troppo conosciuto, soprattutto qua. Esatto, sì. Cioè, ha prodotto un pezzo già da Mind Tricks, agli Arnold Faros, esatto, ha prodotto un pezzo a ESA, ha prodotto in Italia diversi artisti, però non è molto conosciuto, quindi conoscetelo, andatevi sì a sentire Noircore su Spotify e fateci sapere che cosa ne pensate. Sì, esatto, su Spotify lo trovi sotto il nome Francesco Nero, in realtà, quindi andate a cercare Francesco Nero su Spotify. Finito il momento pubblicità, andiamo avanti. Adesso passiamo a un artista che... Artistuccio! Sì, probabilmente, descrivendo questo artista, credo, quando vi diremo gli appunti che mi sono preso su questo artista per farvi un discorso abbastanza ampio, vi sembrerà una testa di cazzo. Probabilmente sì, lo odierete, credo, un po' borghesino, un po' così. Sì. Non è una gran simpatia, però purtroppo ha fatto della bella musica e nella presa bene questo pezzo andava messo, sì, quindi sì. Pezzo... stiamo parlando di Kanye West. Non sappiamo come si pronuncia. È complicata la pronuncia di questo nome, però io dirò Kanye. Io dirò Mr. West. Mr. West è Loop Fiasco, è un tizio che non sento da anni, Loop Fiasco. Sai, l'ho scoperto una colonna sonora di un videogioco, Loop Fiasco, lo sai? Ti giuro, non voglio mentire. Ora passiamo a Touch the Sky di Mr. West e Loop Fiasco. Vabbè, tanto avete capito di chi stiamo parlando. Chi non conosce Kanye West? Tutti lo conoscono. Unlimited Struggle. Esatto. Vado? Sì. Sicura? Sì. Ne siamo certi? Ma sì. Ok. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit to pop, the doors is closed. I felt like Bad Boy Street Team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus, I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour, I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got my advance. I just wanted to shine. Jake's favorite line, dog, in due time. Now they look at me like, damn, dog, you what I am. A hip-hop legend, I think I died in an accident. Cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. Yeah. For the day I die, I'ma test the sky. Now let's take them high. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, la, la, la, la, la, la. Back when Slick Rick got the shit to pop, I'd do anything to say I got it. Damn, them new loafers hurt my pocket. Before anybody wanted K-West beats, me and my girls split the buffet at KFC. Dog, I was having nervous breakdowns. Like, man, these niggas that much better than me. Baby, I'm going on an airplane, and I don't know if I'll be back again. Sure enough, I sent the plane tickets, but when she came to kick it, things became different. Any girl I cheated on, she skeeted on. Couldn't keep it at home, thought I needed a knee alone. I'm trying to right my wrongs, but it's funny them same wrongs help me write the song. Now, I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky, you gon' touch the sky, baby girl, testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. Yes, yes, yes, guess who's on third? Lupe still like looping the third. Here like here till I'm bitter on the curb. Peach fuzz buzz but bitter on the verge. Let's slow it down like river on the serve. Bottle shaped body like Mrs. Butterworth. But before you say another word, I'm back on the block like I'm laying on the street. I'm trying to stop lying like a mumbra, but I'm not lying when I'm laying on the beat. On guard, a touche, Lupe, cool as the unthaw. But I still feel possessed as a gunshot. To come as correct as a porn star. And a fresh pair of steps and my best phone call. So, I represent the first. Now let me end my verse right where the horns are. Like, I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky, you gon' touch the sky, baby girl, testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, yeah, you gon' touch the sky. We back at home, baby. Sky high, yeah. I'm sky high. Ringraziamo Marso per averci fatto toccare veramente il cielo con questo finale. Sì, non l'ho mai detto a nessuno, in realtà il ritornello l'ho registrato io a Kanye West. Ero piccolo e mi divertivo a fare era un sacco divertente. E Kanye ti ha chiamato: senti, ma sento che fai bene Aska, non è che ti va a divenire? Non sapevo dire altro, sai, sono le prime parole che ho imparato. Il ritornello Aska. Kanye West, allora parliamo un attimo di Kanye West al volo, perché c'è un sacco di roba da dire su Kanye West. Purtroppo. Allora, Kanye Omari West, oltretutto questo Mr. West, chiamiamolo così, classe 77, è un musicista, beatmaker, rapper, produttore, cantautore, regista e stilista statunitense. Cioè, questo non c'ha proprio che fa, è pieno di robe, credo. Si alza la mattina e fa: ma se oggi disegniamo dei vestiti, credo, me lo immagino. Nato ad Atlanta, in Georgia, padre ex Pantera Nera, uno dei primi giornalisti neri ad Atlanta Journal, oltretutto. Adesso è consulente cristiano, diamo tutte queste informazioni che sono divertenti. La madre, invece, la dottoressa Donda West. Donda West, bellissimo. Bellissimo nome. Donda, professoressa di inglese alla Clark Atlanta University, presidente del dipartimento di inglese, e poi manager del figlio, credo. Cioè, questa qua, cioè, io... Sono sempre... non so, cioè, sono cose che sono anche belle, in realtà, però mi seccano, credo. Cioè... cresciuto in un contesto borghese, frequentando la Polaris High School... alla domanda sui propri voti presi al liceo rispose: prendevo A e B e non mi impegnavo nemmeno. Credo, classica faccia da schiaffo. Sì. Vabbè, tralasciamo la sua vita. Praticamente all'inizio produceva singoli per artisti hip hop e R&B. È diventato famosissimo quando questi artisti hip hop, che da locali sono passati a essere Jay-Z, Talib Kweli, Cameron, Common, The Game, Alicia Keys, John Legend, credo, cioè sapeva quello che stava facendo. Esatto, insomma, cioè, erano dei signori artisti e quindi sicuramente non stava scherzando Mr. West, credo. Il suo primo disco nel 2004 era The College Dropout. Sì. Ah, ok. Forse perché lasciò il college per continuare la sua carriera musicale, tipo, in effetti ha senso. Questo pezzo, Touch the Sky, è preso dal secondo disco uscito nel 2005, che è Late Registration. C'è da dire che negli anni ha fatto migliaia di dischi da solista, ha fatto dischi in collaborazione con Kid Cudi, con Nas, con Jay-Z. I suoi primi 5 dischi solisti hanno ricevuto 21 Grammy Awards. Cioè, qua è uno dei pochi artisti che passiamo dove parliamo di numeri, perché Devo ha venduto 3 milioni di copie con un singolo, 4 milioni con un altro, 3 milioni con un altro ancora, tutti dischi di platino, capito? Cioè, è uno dei più grandi, uno degli artisti che più ha venduto negli Stati Uniti, quindi io non voglio dire più nulla perché mi sento un po' invidioso in questo momento. Cioè, sì, capito? Sì, è forte, capito? Però che palle, capito? Cioè, vabbè, no, dobbiamo esprimiamo essere anche opinioni personali, dobbiamo sul essere professionali, West, dobbiamo adesso essere professionali, esatto. Non facciamoci deviare dalle nostre emozioni. Andiamo avanti. Dovreste vedere il ditino con cui bacchettava Mars mentre diceva questa cosa. Andiamo avanti, andiamo avanti. No. No, sì, se andiamo, no, avanti. Ma andiamo avanti. Abbiamo un duo molto molto interessante. Purtroppo anche questo poco conosciuto. Sì, sì, effettivamente sì. Beh, sì, se ci pensi, credo sì, capito. Vabbè che poi in gruppo in realtà hanno smesso di fare robe. Sì, però. E invece a noi piacciono molto. Loro sono gli Ever Living Sound. Non so se li avete sentiti, se no ve li facciamo sentire noi adesso. Il pezzo è Elements con la collaborazione di Elda Sensei. Elda Sensei è uno invece che conoscete tutti, spero, perché Dio mio quanto è forte Elda Sensei. Esatto, e niente, vi sentite questo pezzo molto molto preso bene, molto allegro, fra le nuvole, e siamo molto contenti di passarlo. Un pezzo allegro, come fa a essere fra le nuvole? Perché la copertina del disco è tipo su una mongolfiera. E quindi viene in mente questa cosa. Che strane associazioni. Vero, fra le nuvole. Vabbè, godetevi sto pezzone che c'è un bittone della Madonna. Posso dirlo in radio? Sì. C'è un bittone della Madonna. Vado? Sì. Zè. Aspetta, aspetta, stacco il microfono quando parte la batteria. Aspetta. Yeah. Elvis Sensei. 3, 2, 1, go. Side Marshall, go. And colors they can't sell. Caps of many kinds and styles and hand skills. Straightest of lines and characters hard to build. Sketch pro pad merchant working in his shows. Backdrop is life, light through cans and flows. Portraits are scorching and blends are important. Energy surrounds all burners putting thought in. Color wheel drill with the fade so crisp. Flow master tools complete the outfit. Rubber gloves and masks, fumes from the past. And it's still relevant and evident from the tag. Brag on my wild style, war's not a secret. The first hit in 94, we leaked it. New era for bombing and always beat the shit. So toys get in line for brand new starter kits. The music, the breaking, I got everyone attention. My back spins longer than a pen life sentence. Wave locking and bending, create new inventions. Strike a pose, air flare, one arm extending. Apple jacks on your head and start spinning. Head glides, suicides, and ex-wife. You had to practice day and night to get nice. I used to up rock for money at the bus stops. At least I wasn't trying to hustle at the drug spot. Who remember Puma sweatsuits and Adidas? Fat laces to make your footwork the neatest. Pull out the cardboard, there's none around. Well, let's get busy on the hard floor. I'm thinking about the moves to bring chills. Moonwalking, nah, the windmills. No hands if you advance with skill. Battle while the DJ on the wheels is still. It's all love though. B-boys or B-girls are brethren. And show mad love to hip-hop legends. Never fall. and speak truth. Yo, honesty the policy. For a top MC, it gotta be. Speak from your heart without apology. I use every second to flee to show you, even if you're not ready to see the rebel in me. The difference is when you rock, the crowd evaporate. But I can take a rowdy bunch and show you how to captivate. The voice of the people, speak truly is my duty. And whoever you be, know you can't do nothing to me. Eccoli qua, vi sono piaciuti i nostri Everly Van Sound, sono bravi, sono bravissimi. E fra l'altro un sample sono anche... tanto semplice quanto efficace. Sì, ragazzi, veramente, cioè... veramente, una scelta veramente con un occhio d'orecchio, ecco. Occhio d'orecchio, mi piace questa occhio d'orecchio. Sì. Wow! Il disco che vi abbiamo appena fatto sentire era Freedom the Second ed è del 2010. E sforna questa meravigliosa traccia che abbiamo passato, che è Elements. E loro appunto sono un progetto, in realtà Everly Van Sound viene definito progetto, e l'album Freedom the Second è appunto il secondo capitolo, diciamo, di questo progetto. Gli Everly Van Sound sono Sy Marshall Law, che è inglese ma di origini giamaicane, e Skid Slam, che invece è semplicemente inglese, e quindi abbiamo trovato anche la notizia che fossero fratelli, quindi in qualche modo, insomma, sei tipo fratellastri, una cosa del genere, esatto. Così, lavorano bene insieme, infatti, ecco, in qualche modo hanno trovato il modo di lavorare bene insieme. Comunque pare che siano anche parenti. Allora, appartengono ovviamente alla scena underground americana e sono sempre continuamente a sfornare collaborazioni, dischi solisti, progetti paralleli, eccetera eccetera. Cosa succede? Alla fine del 2011 fondano... Alla fine del 2001 fondano la propria etichetta che si chiama Freedom Entertainment. Sempre difficile da dire questa parola. Entertainment. Dobbiamo sempre dire Freedom Intrattenimento. Freedom Intrattenimento, esatto. E stampano una serie illimitata di Everlation in vinile. Il disco che vi abbiamo fatto sentire è interamente prodotto dai Beatniks, che sono fortissimi. Anche se, come le leggi non scritte, i produttori molto spesso rimangono nell'ombra. Il che è un peccato. È veramente è un peccato, perché i Beatniks sono animali. Sì, e vorrei dire, prima di passare alla pubblicità, che Elda Sensei, che non è da sottovalutare, è un signore MC. Cioè Elda Sensei, sottolineiamo questa cosa. Sì, ve ne parleremo quando passeremo i gruppi, diciamo, i gruppi capostipiti americani, perché faceva parte degli Artifacts, quindi cioè, capito. Ok, momento pubblicità. Allora, veniamo... facciamo una sigla pubblicità. Pubblicità. Accontentatevi. Ok. Allora, innanzitutto informazioni di base. Se non ci state sentendo sulle frequenze 13.59 AM, da dove potete prendere Radio Wombat, potete comunque seguirci sul sito, che è wombat.noblogs.org, e mandarci delle mail a posta@wombat.net, oppure scrivere sulla nostra personale della trasmissione, nostra Sessioni Notturne, pagina su Facebook di nome Sessioni Notturne. Che frase era questa? Ripartiamo, volevo dire che potete anche scriverci sulla pagina Facebook Sessioni Notturne, che è proprio la pagina della nostra trasmissione, che è proprio gestita da noi. Non abbiamo uno staff, esatto, che la Mars gestisce. E Vintro gestiscono, esatto, la pagina. Cioè scriveteci, più Mars, vi prego, scriveteci. Ma perché nessuno ci sta? Tutte le volte Mars deve fare il lupo solidario. Ma sì, ma sono triste, capito? Mi sento poco cacato. Ok, bella, il momento pubblicità è finito. Passiamo, facciamo adesso la rubrica news oppure aspettiamo? No, rubrica news, dai, bella. Spariamole. Ok, facciamo una sigla anche per la rubrica news. Rubrica news, ta-tan, bella. Bella, mi è quasi piaciuta, sai? Vero? Anche a me. Allora, parliamo un attimino delle news. Wow. Sono usciti tantissimi dischi soltanto a maggio, ragazzi. In America sono sempre attivi. In Italia è uscito un singolo di Chiave, è uscito un singolo di Mecna, è uscito un singolo di Kento. Ha fatto uscire un singolo che anticipa il suo nuovo album. Che uscirà a breve, tipo che non so 6. Quando esce. Sì, domani. No, domani, oggi. Oggi. Vabbè, non lo so, raga, esce il disco esce di Kento. A breve, Kento. Sì. Giovedì prossimo vi diciamo com'è che il disco di Kento. Uscito, sì. Esatto. Quindi parliamo un attimino dell'America, un veloce exploit sui dischi usciti in America. Il 5 maggio inauguriamo questo fantastico mese con l'uscita del nuovo disco di Afurà, di nome MasterChef, il che fa molto ridere. A me fa tantissimo ridere questo titolo. Aspetta che non voglio fare la news senza il beat da sotto, mi secca. Da sotto. Sì, sì, sì. Dopo vi diciamo di che beat è. Allora, poi abbiamo Diamond D, leggendario produttore dei ITC, che ha fatto uscire un nuovo disco, si chiama Diamond Peace 2, uscito l'8 maggio. Poi abbiamo Static Selecta, che in 4 giorni ha fatto uscire 2 dischi, e io non so come abbia fatto. Cioè, questo c'ha tipo 12 hard disk pieni di beat, arriva uno, fa casa. Senti, facciamo un disco insieme, vai, tieni, bella. Il prossimo, disco insieme, bella, tieni, il prossimo. Cioè, non so come fatica Static Selecta, però ha fatto uscire 2 dischi. Uno con Place, che si chiama Peacework, e uno con Currency, che si chiama Gran Turismo, con la copertina, con il logo del videogioco. Cioè, ragazzi, cioè, questa è proprio pubblicità... marcia. No, a me piace quel gioco. Gran Turismo è un giocone, capito? Però, tipo, come si dice? Pubblicità... non subdola, come si dice? Subliminale. Subliminale. Mai avrei pensato che volevi dire subliminale. Scusa. Poi Tyler the Creator ha fatto uscire un disco nuovo, si chiama Igor, e non l'ho sentito, ve lo dico soltanto. Dead Kid e Leaf Dog lo ricordiamo, Leaf Dog componente dei Four Halls insieme a Flip Tricks e a Dirty Dyke, ha fatto uscire un disco che si chiama Confessions of a Crude Lord, ed è un discone, raga, un discone pazzesco, cioè sentitevelo. Poi Chic Lucio ha fatto uscire un nuovo disco, si chiama Beast Mode Volume 3. I Flying Lotus, che non so se conoscete oppure no, ma sono produttori leggendari che lavorano da una vita, cioè da quando sono piccolo, che memoria di questo nome, hanno fatto uscire Flamagra, è un titolo abbastanza strano. Sì. Ma anche la copertina è strana, ma anche il disco è strano, però sentite quello che c'ha, bei beat. Poi Mr. Chicks e Craig G hanno fatto uscire Strike Team. Blood Exile, come dicevamo prima, hanno fatto uscire un nuovo EP che si chiama True Living, True Living, True qualcosa. Non so come si legge, credo, non so come si è deciso. Poi abbiamo Wordsworth e Pearl Gates, che hanno fatto uscire Champion Sound il 23 maggio. E ci avviciniamo alla fine con la top 4. In realtà no, non sono in ordine di top, però vabbè. Cioè Masta Ace, che ha fatto uscire il disco. Masta Ace, già, ragazzi. Sì, ne abbiamo parlato, esatto, l'abbiamo già elogiato abbastanza. Shelf Life, uscito il 24 maggio. Poi abbiamo Jay Worthy e Alchemist, che Alchemist pure è uno che non smette mai di suonare. Hanno fatto uscire un EP che si chiama Fantasy Island. Questo è uscito il 2 giugno, quindi è fresco fresco di stampa. Yamsu e Skipper hanno fatto uscire Next of Kin il 29 maggio, bel disco. Yamsu poco conosciuto, ma nel sì molto molto forte. E poi abbiamo gli Onyx, che sono tornati alla riscossa con un macete tra i denti, probabilmente, con un mitragliatore in tasca, con microfoni esplosivi, perché sono sempre cattivi gli Onyx. Sì. Hanno fatto uscire un disco che si chiama Onyx Presence 100 Mad, uscito il 31 maggio, con produzioni... Ah, fresco fresco lui. Molte produzioni degli Snow Goons, quindi vuol dire che se voi l'ascoltate dopo ammazzerete qualcuno. Qualche una produzione di Alchemist e poi altre miste, non ricordo, però c'è un sacco di featuring, cioè ogni traccia sono tipo 4-5 rapper, capito? Wow, cioè ragazzi, wow. Adesso avete materiale per questa, esatto, settimana, cioè, segnatevi, dai, tutto, scaricatevi i dischi, cioè se volete poi vi passo per anche per il mese, in realtà non si può scaricare la musica illegalmente, però se a qualcuno se capita qualcuno, il click sbagliato potete no, scaricare, no, mica per quello, più che altro magari li trovate su YouTube da sentire, sì, oppure compratevi dischi, ragazzi, è una cosa sempre bella comprare i dischi, anche se alcuni cioè molti dischi sono difficili da trovare originali, questo c'è da dire, ce lo so, sì, vabbè, personale, però ce la potete fare. contiamo confidiamo su di voi. In voi. Ma lei che va, andate su Spotify. Cioè, io non uso Spotify, però so che è molto usato, quindi cioè, dai. Esatto, dopodiché andiamo avanti. Riprendiamo? Andiamo avanti. Fine pubblicità. Esatto, e andiamo avanti con la nostra puntata. Che l'ho fatta da e con la nostra presa bene, il presabenismo di oggi. Vuoi annunciarlo se è il prossimo pezzo? Sì, ma sì, dai, sì, dai, lo ciò che ci c'è. Ladies and gentlemen, lo so, c'è. Ladies and gentlemen, adesso passiamo un pezzo. E fin lì, tutto bene. Tutto questo, bene. Questo pezzo si chiama That's Me, la produzione di Stoop, The Enemy of Mankind, il leggendario produttore di Gentleman Tricks, che nel 2009 ha fatto uscire il suo primo disco da solista, quindi il suo primo album dove ha fatto rappare gente random che gli piaceva sui suoi beat, un po' come un 60 Hz, il classico disco da produttore. L'ha fatto uscire solo nel 2009, si chiama Decalogo, comunque, del 2009. Questo pezzo è con Joel Ortiz, che... Joel Ortiz ha fatto un disco con Apollo Brown non molto tempo fa, quindi cioè non è che vi stiamo dicendo questo è un rapper che non sentirete mai più. È forte Joel Ortiz. Questo pezzo è molto preso bene, perché c'è un sample molto preso bene, suona molto preso bene. È presa bene. Esatto, sì, beh, non voglio di più niente, ciao. E ride. Bamparare. I'm the fresh air. My words are moving, soothing your right and left ear. I shop down in Brooklyn trying to pick up the best gear to look like a millionaire stage before I sweat shit. That was me and SOBs lying around the block. Fans making it damn near impossible to get out the spot. Green and yellow promo band. I was out with Koch and C. I was the first Latino nigga down with death. And speaking of Latin, since fun's passing, besides Fat Joe, I'm the only thing that's contracting. Flipping swag on the float, rapping on Fifth Avenue. Imagine passing a million, waving them big flags at you. Every time I talk to y'all, I say something. I don't get on DVDs with heat on display bugging. With the mic, it ain't nothing. I'm a microwave oven. Y'all made these up-and-comers feel nice when they wasn't. When them lights go on, that's me. The show get done and them lights go off, that's me. Them cameras get the flash and they taking pictures of me. You'll never ever meet a dude I'm pretending to be. When I do an interview, that's me. The interview done, please believe they writing about me. The fans get to asking for autograph and that's me. You'll never ever meet a dude I'm pretending to be. Remember the industry composed a little list, what? 10 hottest rappers or something and niggas flip. How the fuck you think I felt? That was ridiculous. Now I'm giving it to everyone, I ain't Saint Nicholas. I'm big with this gift, I'm eight with the wrist. I'm really the setting number before eight on that list, y'all. Skip past the dragon, I'm flames when I spit. I'm angry right now, I can behave when I piss. I'm listen, I'm the fucking man. I'm the new king, shorty, call me Young Buckingham. I'm who they all sat around at the Last Supper, fam. Suffering such a tash, I laugh, this is nothing, damn. How it took so long for y'all to see? Y'all went on a journey looking for who? The Odyssey could have been much shorter. I was right there on the corner, bag of chips, quarter water, and Lucy for four quarters. When them lights go on, that's me. The show get done and them lights go off, that's me. Them cameras get the flash and they taking pictures of me. You'll never ever meet a dude I'm pretending to be. When I do an interview, that's me. The interview done, please believe they writing about me. The fans get to asking for autograph and that's me. You'll never ever meet a dude I'm pretending to be. But they ain't see it, said I was too damn fat. He's too hard to mark, but none of them said I can't rap. They hands used to shoot me away, now they hands slap. Cause when I'm on stage, it goes down like a Zantac. If you was trying to lock down a game, you'd be saran rap. I'm a vault inside a vault, in a vault with a damn latch. Attached and secured by a kryptonite lock. So even Superman himself couldn't get to my spot. Not to mention the alarm system I got. Man, I guard this belt with a Sloman shield, I am so for real. Sometimes I think I'm over ill. When I flow, I kill the drive of aspiring rappers. They just go home and chill. Actually, it was on before I closed the deal. When I was unsigned, I was unfair like the old Shaquille. Guess what I'm saying, boy, please. He's aye, he's pretty good, but none of them ain't worth it. When them lights go on, that's me. The show get done and them lights go off, that's me. Them cameras get the flash and they taking pictures of me. You'll never ever meet a dude I'm pretending to be. When I do an interview, that's me. The interview done, please believe they writing about me. The fans get to asking for autographs and that's me. You'll never ever meet a dude I'm pretending to be. vibe, dai, questa la latineggiante presa bene. Ci piaceva farvela sentire. Andiamo avanti ancora. Esatto. Ok, allora parlo io? Sì. Kevin Baldwin, che sembra il nome di un attore, mi ricorda molto Alex Baldwin, meglio conosciuto con il nome d'arte di Stoop, the Enemy of Mankind, è un produttore hip hop americano, DJ, e membro dei Jedi Mind Tricks. E fin qui tutto bene. Ha lavorato praticamente a quasi tutti i dischi di Jedi Mind, tranne un breve periodo dove era stato sostituito da produttori diversi. Tipo, forse solo due dischi in realtà, poi sono tornati alla grande con i super campionamenti. Stoop è uno dei miei produttori preferiti in assoluto, sappiatelo. Fuori da Jedi Mind ha lavorato in realtà con molti pochi artisti. Ha lavorato con Savannah Esoteric, Cannibus, Virtuoso, Guru. Ha lavorato con qualche cantante, ha lavorato con Lori Dorisa, con gli Sfullerton. Ha lavorato, mi ricordo, robe fighe però, poi vi facciamo sentire tutte. Questo disco è uscito il 31 marzo del 2009, sempre per la Baby Grande Records, che è la storica casa discografica da cui sono usciti praticamente quasi tutti i dischi degli Army of the Pharaohs. E in questo disco abbiamo, oltre Joel Ortiz, abbiamo gli M.O.P., abbiamo Slain, abbiamo gli Other Spaces, Superstition, Lori Dorisa, appunto, Dimoz, c'è un sacco di gentaglia, tutta quella gente abbastanza cattiva, anche se penso che gli Other Spaces pure c'ha un sample molto preso bene. Più brasiliano di questo in realtà, mi ricorda molto, mi ricorda tipo le pubblicità vecchie della Nike dove giocavano tutti a calcio, Yoga Bonito, quelle robe là. E Joel Ortiz invece è un rapper membro, sì, figli, tutto bene, membro degli Slaughterhouse, membro degli Slaughterhouse, che avete sentito, se non sbaglio, in un pezzo di Eminem, che hanno collaborato con Eminem. Stavano sotto l'aftermath di Dr. Dre, infatti. E nel 2007 ha fatto uscire il suo primo disco. Il resto non l'ho manco cercato, raga. Ho fatto altri dischi, ho fatto il disco con Polo Brown, è forte, tutto bello. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti con un pezzo che avevamo preannunciato, che avremmo mandato prima o poi. Forse proprio non nella puntata scorsa, ma in due o tre puntate fa. Sì, che abbiamo passato un pezzo con Nore. Il pezzo di coso. Non gioca con quella roba. Era il pezzo di Prodigy. Ci sta. C'era il pezzo di Prodigy, sì, o di Avok? Non me lo ricordo. Vabbè, però abbiamo, insomma, c'era un pezzo con Nore, e quindi so. Vai, annuncia il pezzo. Allora, annunciamo il pezzo. Loro sono il Capone Noriaga. Yow. E ne abbiamo già parlato. Il pezzo che avevamo detto che avremmo passato prima o poi è proprio Invincible, ed è un pezzo che sposa il tema di questa puntata, quindi musica per le vostre orecchie. È produzione di Joe Premier, diciamolo, ti prego. Diciamolo. Vado? Sì. Sentite quanto è bello, sentite. The Invincible, Untouchable, CNN. That's what all niggas keep asking. When CNN gonna do a joint with Premier? He did it. We here now. Y'all need to stop asking. The Invincible, Untouchable, CNN. The reunion. Right now, seeing it for men, nigga. Untouchable. Do it like this, nigga. Yeah, your Melvin Flint drops. My whole colossal stops. I can't believe I fucked up and made a half-ass album. My excuse is, my pops just died. And I ain't wanna make music. My pops just died. My fans stuck with me. My shit still went gold. I got a habit just to drive. Getting ahead and I roll. CNN, we like the Grand Royal. I write rhymes with the Coke oil. Yo, Apollo Heat. See me. Cell leak right with Rollo Creek. Got out the club. Seen the police. Diallo deep. I'm like Frank Mathis. See me blow my dough. And any bitch give it head. If she blow, I know. Oh, no. We had to go see Primo. Change it up. The reunion. A brand new cut. Up in D&D. Staying with some rats and sluts. From the projects. You know we need our welfare cut. CNN. I'm in it to win it. Sit back, picture that, yo, respect it. The legacy is never end. CNN, network, channel 10. Yo, it's all reality. I'm in it to win it. Sit back, picture that, yo, respect it. Yeah. I'm not growling, but I bend niggas and I pop collars. I grind for the top dollars, fight Rock Wallace. put my hand on the Bible, tell it to the judge. I'm alive for my thug, take it in blood. I'm .com, I drop bombs, kill your squad. Live like I'm still in the yard till I part with God. Throw my niggas in the bridge with the $50 Panasonics on the black gates. Who rap chronic, clap Jake. Whether we have not a half case, we got gas to get dashed straight. We moving at a fast rate. My last case, I got bail. My first man didn't die, that's how I write it. Sister can't stand it. I smoke blood, get pissy. Who could flow with me? Staggering, bang like a wild African. Spit gutter on a screamo beat. For the love of the street, the only child my little brother was he. CNN, network, channel 10. Yo, so reality. I'm in a good one. Spit back, picture that, yo, respect it. The legacy will never end. My name is bilingual. You see, my shit speaks Spanish. Disappearing acts make your whole team vanish from coast to coast. I got the things. Bada boom, bada bing. Be the glorious king. Another album, another plaque, another ounce and another max. Another chromed out gat. Another place to face where I lace you at. I put all type of holes in your face. You black. Who think I don't got it? I'm like working with a bird. I got long product. Give it to you all. Won't chop it. New York niggas is foul. We body sling shit in the foul. The pregnant fiends killing they chaff. I'm the next best thing to X. Oral sex, brand new text, food stamps and welfare checks. I'm the messiah, recognize it. Political prisoner from the projects. I send shots where the cops is. CNN, nigga. Network, 10 or 10. Yo, it's all reality. I'm in a good one. Sit back, picture that, yo, respect it. The legacy will never end. CNN, network, 10 or 10. Yo, it's all reality. I'm in a good one. Sit back, picture that, yo, respect it. The legacy will never end. The invincible. Questa era Invincible, siamo nel 2000, il disco è The Reunion, di cui adesso raccontiamo anche brevemente la storia. Loro sono i Caponen Noriaga, ovvero Capone, Capone e Noriaga, sì, che sono i nomi dei due componenti di questo bellissimo capolavoro. Allora, sono statunitensi e questo è il loro secondo album, perché poco dopo l'uscita di The World Report, che era il primo disco, che era il primo, viene arrestato Capone. Il nome, credo, Capone arrestato, fa tanto ricordare. Vero, ai tempi qualcuno, quel Capone. Sì, qualcuno fa ricordare qualcuno. Quando poi viene rilasciato e torna in libertà, viene appunto registrato questo secondo disco che si chiama non a caso The Reunion, e nel 2000 infatti. E a questo secondo lavoro dei CNN parteciperanno un sacco di artisti, e non a caso questo pezzo qui è proprio prodotto da Premiere, cioè proprio... si sentiva. Era proprio lui lì sotto. Esatto. Basta. Andiamo avanti. Continuiamo, riusciamo a sforare comunque delle volte. Sorprendente. Ce la facciamo. Allora adesso tocca da Sherkuno. A Sherkuno. Menti da rap, featuring Jap, Zampa, Mistaman e Rido, ragazzi, un pezzone, capito? Questo viene del 2004, questo pezzo, questo disco, che era da Fotta Maker, praticamente il primo disco ufficiale solista di Asher Kuno, della Spregiudicati Crew. Lo facciamo sentire al volo e andiamo di fretta. Kuno, Zampa, Rido, Mister Jeff, hey! Siamo dei punk, abbiamo menti da rap, hey! E io, fratello, dimmi come funziona, hey! In Italia, Milano, Treviso e Verona. Hey bro, siamo malati di sta roba, ce l'abbiamo nel sangue come veleno un cobra. Teneteci fermi, siamo gli alienati, camici di forza per un gruppo di infermi e spregiudicati. Mister Jeppy Jepp, mente da rap, lo sai che c'è, viaggio su di un beat più grasso di un Big Mac. Abbiamo la fonda, cosa? La vuoi più spessa? Porto la merda sotto le scarpe dentro la fortezza. Zampini, spregiudicati, Mister Rido e Jepp, abbiamo più skills che seguaci lo zio Sam. Ehi Rubo, stoppa sto beat, please, sento dei fottuti bippo, microchip dentro gli slip. Boom, carichi d'astio, saltiamo in aria, un flow che svare, ogni suono che varia. Sono un poeta che scrive, che resta sul chi vive, e ogni mia strofa è cruda, più di Jungle Fever. Chiamami Giannino John, io sono il re dei gorilla, un figlio di puttana come me beve birra. Menti da rap, di cosa c'è se mi spiglia? Matti sul set, ad ogni jam si strabigliano, tutti quei fanzi che ci ascoltano e sbadigliano. O sono sordi o sono morti e si ripigliano, noi con i sogni di ragazzi che si appigliano, a questa musica fottiamo anche l'uccignolo. Per prima cosa c'è la fotta, rotta che mi porta a scrivere su questa rotta. Ignorante dotta che si capota, prende una botta, persi nella lotta. Tentiamo di uscire da sta grotta, bro. È solo hip hop, sto con i miei fratelli. Spregiudicati, uomo, tu non ci fermi. È tutto ok, giro con i puttei, resto coi miei. Ho storie come MDJ, ehi. Hey. Culo Zampa, Rido, Mr. Jeff. Hey. Siamo dei punk, abbiamo menti da rap. Hey. E io, fratello, dimmi come funziona. Hey. In Italia, Milano, okay. Treviso, hey. Verona. Buona, buona. Sul microfono brutti ceffi, no. I nostri estri vi lasciano perplessi, yes, sì. Esce alcuno da foto make. La gente sente le mie rime e poi si fa una sega. Yo, abbiamo la mente rappusa, no. Vita che tu sa tipo Nick and the USA, okay. Siamo italiani e siamo gente che spaventa. Spingiamo roba sana come al nord della polenta. Nino, tu ci conosci, allora fidati. Rido Zampa, Jeff, Mister, Mister Delivery. Sì, menti da rap, chi ci sfida? Prega Dio più del maestro della corrida. Guida, guida, tiriamo in alto gli spliff. Guida, guida, ti manda indietro le schiss. Sì, sì, esce tu insieme ad un tot di gente. Rap, la nostra mente certamente si sente. Hey, fucker, non puoi cagare a strati solo perché mangi wafer. Ti credi al corsi, cazzo, sei un gabber. Io sono messa, tu chi sei, ragazzo? Sei un equilibrista perché mi stai sul cazzo. MCs, volete le punchlines? Le facevo ancora prima di so perché si chiamassero così. Freestyle, pompa il beat, fratello, sporo in faccia Brad Pitt perché vengo sul più bello. Nessuno è nato con il micro tra le dita, sempre che sua madre non se lo infilasse dentro il figa. La mia vita, mezzo uomo, mezzo rapper, ti mando in trance come un uomo con le tete. È atipico, come Rula o la Sass. Se mi vuoi alla tua gemma fare il rap, si sa che lo si fa. Nero su bianco come un fax, non dirmi quanto cash, ma dimmi quanti fax. Non c'è l'estetico, né prescrizione di nessun medico, né soluzione, niente metodo empirico, non tracci pensieri, i ragazzi non li tocchi, il neurone trasmette walkie talkie, troppi sordi, non arriva sto segnale, vuol dire che è speciale, duro da codificare, banda larga e bassa, si amplifica e rimbalza, gli impulsi cerebrali esagerati dalla massa, uso il micro come antenna, verbo alla penna, se si sparella, da fuori dico tenna, datemi solo un perché, trovo io il resto, se dici propaganda riscriviamo un manifesto, proponi positivo, che sia vero sul serio, fissa un giorno con la X, sul tuo calendario, le menti rap sanno della situazione, porta tu la gente, metto io l'organizzazione. Culo Zampa, Rido, Mr. Jeff. Hey. Siamo dei punk, abbiamo menti da rap. Hey. E io, fratello, dimmi come funziona. Hey. In Italia, Milano, Treviso e Verona. Che connubio di punchline in un solo pezzo, ragazzi. Che pezzone, che bel, un pezzo preso di quelle punchliners super prese bene, sì. Ti diverti, fai due risate, super Mistalan, super Asher Kuno, forte Rido, anche se urla sempre quando rappa, non capisco per quale non motivo. Ride. Ragazzi, è stato bellissimo stare qui con voi, io abbandono per sempre il programma, lo abbandonerò per sempre prima o poi. Pillole al volo su Asher? Io? Vai. Tu? Io? Vai. Ma se poi ti annoi proprio, eh. Asher Kuno. Aia, l'occhio. Porca troia. Ah, è entrata una cosa nell'occhio. Anche a me. Ma che cazzo? Hai sputato in un occhio. Giovanni May, in arte Asher Kuno, classe 83, un rapper italiano, membro degli Spregiudicati Crew, già detto prima. È entrato a far parte della crew nel 2002 e nello stesso anno fece uscire il suo primo demo che era Cenere Esplosiva, un demo di 12 tracce con tra le collaborazioni proprio i suoi compari di crew. Nel 2003 partecipa a diversi dischi, al disco L'Alba della Creme, al disco di Bassi, mi sono perso. Nel 2004 esce questo disco, il suo primo album solista, intitolato The Fotta Maker, come lo pronuncia lui, The Fotta Maker. Molto, molto fico come disco, ci sono MC da tutta Italia in questo disco, ci stanno Jack the Smoker, Ape, Rido, Zampa, Mistaman, Gomez, Vacca, Mondo Marcio, DJ Ronin, Bassi Maestro, e alle produzioni abbiamo Mace, produttore già con Jack the Smoker nella Creme, e Rubo, che ha prodotto un sacco di bei pezzi. Regà, bel disco, alcuni pezzi presi bene, altri no, però sto pezzo era veramente divertente, come ogni pezzo pieno di punchline che si rispetti. Andiamo avanti e ci lanciamo su un disco fresco, uscito veramente da poco, credo da un mese forse. Ma neanche. Neanche un mese. Loro sono La Fine Hip, non so se ne avete sentito parlare, non sono propriamente hip hop, ma sperimentano il genere. E questo pezzo è ben riuscito, secondo noi, e soprattutto è preso bene. E quindi abbiamo deciso di passarvelo. Si esibisce in questo pezzo il nostro Mr. J. Medeiros, il nostro compare di merenda, esatto, il nostro ormai, grande amico, no? Mr. J. Medeiros, di cui abbiamo lungamente parlato nelle puntate precedenti in relazione soprattutto a Vance Hill e ai cosi come i cosi, Procussion, dei The Procussion, sì. Dei, vediamo, e il pezzo è Whatever, e niente, ve lo facciamo sentire e andiamo poi play, facciamo e poi due chiacchiere al volo, dai, ciao, dai. Il video comunque nel supermercato è bellissimo. I take a bullet from the blood, whatever. I take a bullet from the blood, take that, yeah. I take a bullet from the blood, whatever. I take a bullet from the blood, drink that. Now how the fuck you never heard of me? Worry me now, my current is raw. Plus fuck you currently are, my current is strong. Don't bluff, a bird to me now. It's just a bird and the bees, y'all a bird to me. Burning the peas, got burns on your knees. No love, but you're learning to tease. No club, not you're earning no fees. I give a hug to y'all, but all of y'all's birds and fleas. No fear, the fury, 100 plus, be my courage to greet. Free or blurry, out to another, watch scurry and see. See, hurry out the club, now if you heard what I mean. I be the jury and the judge, I make a murder to clean. With enough shots for the burner to seize. You gurgling these words to leave you burning in a permanent fleet. Turn up like a curtain to tea. Smile, motherfucker, gonna hurt to say cheese. I take a bullet from the blood, whatever. I take a bullet from the blood, drink the pie. I take a bullet from the blood, whatever. I take a bullet from the blood, drink the pie. No rapper, man, I ain't as chained to my road or the chapters, man. I have been training on flows and I mastered them all. For the sake of a name, you can't trust up, man. 98 is where my past stopped. Made it out the asphalt, made it on my passport. I ain't never asked for, and ain't about my last word. Stated in my craft work. If you ain't got your own name, shame, but that's your ass for. I ain't never been a humble man, keep the prayer. I'm forever standing born again, and that's a fair thing. I have got forgiveness on my skin, and that's a fair thing. But I can walk my back, I wash my back, and add a pair of pants. One leg at a time, shit is coming, something. I'ma be the stubborn one who's waiting on the summer sun. Now I'ma be the stubborn one who can't even take what's on the woman's skin. It was a shun, motherfucker. I take a bullet from the blood, whatever. I take a bullet from the blood, drink the pie. From the blood, whatever. I take a bullet from the blood, drink the pie. Eccoli qua, whatever, questa era La Fine Hip, dicevo prima appunto questo disco molto molto recente, questa quinta stagione, perché il titolo del disco è Fifth Season ed è quindi una quinta stagione in cui loro sperimentano anche nuovi generi, perché la loro ispirazione iniziale in realtà è proprio hip hop, cioè loro confessano di essersi ispirate principalmente a artisti come J. Dilla, Mos Def, Madlib, insomma tutto quello che riguarda l'hip hop. Però invece in questo disco, se ve lo andate a sentire, noi ovviamente non abbiamo scelto altro, però tante tracce richiamano altri generi molto più elettronici in generale. Il gruppo è composto da 4 beatmaker, che sono Ugo, Chomsky, Mr. Jib e Blanca, e, che provengono da Marsiglia, da Parigi, sì, insomma. 4 francesi. I francesi, esatto, con l'elettronica e hip hop spaccano sempre. Sì, cioè, è vero. Questo non è un luogo comune. È vero. Non è un luogo comune. È vero. Ok. E niente. Bella. In questo momento in realtà hanno molti occhi su di loro. Sì, infatti sì. Sono molto seguiti perché effettivamente sono piuttosto nuovi. Nascono nel 2008, mi pare, però cominciano ora a venire fuori. Beh, comunque, del tutto. Sai, come, cioè, comunque in Francia sono straconosciuti, magari esatto, adesso esatto. Riescono a farsi sentire un po' più anche all'esterno, grazie anche ai più generi che riescono a mettere nelle loro produzioni, ecco, sarà questo. Wow, passiamo all'ultimo pezzo e forse riusciamo davvero a rimanere nei tempi oggi, non ci sentirete sparire nel nulla a un certo punto. Infatti abbiamo scoperto questa cosa, quando praticamente, cioè, capito, regà, a me non va giù questa cosa, cioè, la puntata è no, capito, cioè, ok. No, vabbè, nel senso che spesso spariamo nel nulla perché noi abbiamo un'ora e mezza prenotata di spazio per noi, però potete comunque risentirci per intero sul sito che è www.wombat.noblogs.org. Vabbè, no, dai, scherzo. Andate avanti sul podcast ad ascoltarci. E mettiamo un pezzo che è funky, funky perché è funky, perché c'è uno dei re, perché poi sono diversi in realtà, del funky che accompagna. Cioè, mi sono un attimo perso, hai detto funky quattro volte. Quattro volte funky, ragazzi. Visto che stiamo per chiudere, diciamo tutto quello che possiamo adesso. Sì. Fuori c'è il sole. No. Parliamo di lui. Allora, Americo Casaway. Eccolo. Chi è? È un produttore, è un MC. Cioè, ho scoperto che è un MC. Non so dove rappa, però è un MC, capito? È un mai DJ. Mai sentito rappare io. Infatti, nemmeno io. È famoso per i suoi remix, per le sue strumentali, per il suo stile di campionamento. Perché? Perché è famoso per queste cose? Perché è un pazzo. È un pazzo, sì. Lui prende un artista, gli piace un artista, dice bello, prende la cappella di questo pezzo, prende un artista soul, jazz, blues, di musica che gli piace, come Marvin Gaye, come Stevie Wonder, come James Brown. Nina Simone. Come Nina Simone, capito? Prende questi pezzi, li campiona tutti e fa dei mashup con i campionamenti, raga, che sono una roba, capito? Cioè, ha fatto uscire un disco che si chiamava Yasin Gay, che non era altro che Marvin Gay e Yasin Bey, capito? Erano soltanto Mos Def e Marvin Gay. Raga, i pezzi sono una bomba. Ha fatto dei mashup con James Brown e Notorious B.I.G., con Nina Simone e Lauryn Hill, con gli Atrevka del Quest e non ricordo chi, però li ha fatti. E adesso vi stiamo per passare la sua penultima fatica, perché l'ultimo è stato quello di Nina Simone, che è Common Wonder, quindi è Common e Stevie Wonder. Cioè, ma è un lavoro pazzesco, cioè, non lo so. È sorprendente. Il nostro Americo Casaway veramente riesce a fare dei magheggi con i vinili veramente interessanti. Sì, cioè, andatevi a sentire Six Superstition, che è una versione di Superstition. È vero, di Stevie Wonder. Common che rappa sopra. Eravamo molto indecisi se passare quella o questa. Invece abbiamo deciso quest'altra traccia, di cui il titolo è Like They Used to Say. Abbiamo detto che appunto il disco è A Common Wonder di Casaway. Del 2017. E niente, ci salutiamo qua. Aspetta, piccola curiosità. Un pezzo di Yasin Bey e Marvin Gaye è stato utilizzato in una pubblicità dell'iPad. Questo era molto interessante. Vedi che sono per un artista, sei un produttore, sono fiero, se l'ha capito. Mi pagano per passare certo, pubblicità. Certo, no, è vero. Pagate gli artisti, comprate dischi. E supportate la musica, che è tutto quello che abbiamo. Supportate la musica che vi facciamo sentire noi, soprattutto. Esatto. Fica. Ci salutiamo qua e ci sentiamo la settimana prossima. Non mancate sessioni notturne. Vi saluta, tanti baci e tante belle sessioni da parte di tutti, di tutto lo staff di Radio Wombat, che siamo 42.000 persone. Non ci contiamo mai, ragazzi. Buona serata, Ciao. Fatevi sentire. Chiudo i microfoni. Un bacione da Vintro. Vabbè, no, mettiamo in play. No, ho sbagliato. Chiudiamo sopra il beat, perché è divertente. Andiamo in Facebook. Vi salutiamo qua. È stato bello. Non c'è verso, ragazzi. I'm the rap profession, I go to sessions, study MCs like gods do lessons, mic testing in the rain, I brainstorm, you feeling me out nigga, we got the same form, I drop heavy in spots you scared to put your weight on, there's only so much ice you can skate on, shit cast right for you, you say wrong, no time to debate on, who's hip hop and who's not, or who shot big and Tupac, who this stuff fucking or how much this crew got, that's whole shit, that ain't me or the type of niggas I roll with, I call get drunk. In prison, who hasn't had a chance to hold his son, sacrificing like Abe did his oldest son, trying to hold my cum, I think of raps, seen the BDP cover, and I start thinking back, just because a record has a groove, don't make it in the groove, say what, but you can tell right away, and Dr. A, when the people start to move, yeah, they can feel it all. With a childproof lighter, all your homeboys are biters. So what's up with that? Your producer pumped the track, told him, nah, I can't fuck with that. Nice way of saying, they bring him up the track. My boy in my ear saying, enough of that humble rap. Every single you drop, I'ma double that. Jigga jigga Joe, cut the record down too. My sound surrounds you like racism. You feel it all around you. I go into a soundproof booth and change flows. Track the strange tones with head wraps and bangos. Hip hop is getting strangled by this puff comb syndrome. Niggas been around the world acting like they never been home. I've been dubbed vigorously to adjust the industry and speak up like when my homies must. Well, that's Bassin Miller, Satchmo, the king of all Sardu. And with a voice like Dallas ringing out, there's no way the band could lose. Speaking of facts, the sound is much deeper than wax. Doug F. Luke Lumberjack, I'm keeping the axe. Laying on passed out nights, waking up, beating with raps. Geek like the fat boys, do the fever in fact. It shows I get my hoes in a scene in the mat. Raps develop like film, so call me instant comic. It's been in some pimps and hoes, I stick out like Bishop Juan. Talk to my nigga Ron about opening shops. Holding up cops, I'm from the go, it don't stop. Contract ain't showing up options. It's time to pop guns, it's gonna be some shook lost and pop ones. Asking how come, like why clap, they'll be gone before November. To sins with the word remember. Wrote a letter to 88, let's get back, love me tender. The letter came back 3 days later, return to sender. Just because a record has a groove, don't make it in the groove. Say what? But you can tell right away, hey, when the people start to move. Yeah. Thank you.